America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Manchester in New Hampshire. Mario Platero, sono venuto in questo piccolo stato dove il 9 febbraio ci sarà il secondo appuntamento elettorale americano. Perché sono venuto? Beh, perché la battaglia la si sta giocando qui adesso, in questi giorni. I candidati sono arrivati immediatamente dall'Iowa. L'Iowa ormai è un capitolo che appartiene al passato e si danno battaglia forte con una novità. For months they told us because we offered too much optimism in a time of anger we had no chance. For months they told us because we didn't have the right endorsements. Ecco, vi avevo già parlato ieri dell'importanza del risultato di Marco Rubio. E cosa succede? Che c'è un nuovo paradigma possibile per la Casa Bianca del 2016, dopo il voto dell'Iowa naturalmente, che è quello del terzo incomodo. Marco Rubio si è insinuato tra Trump e Cruz e Michael Bloomberg potrebbe insinuarsi fra i due partiti che sono chiaramente deboli e presentarsi come indipendenti. Rubio è giovane, è un moderato rispetto a Trump e a Cruz, e il popolo dell'Iowa ha capito prima di tutti che il vero candidato presidenziale in grado di vincere la Casa Bianca potrebbe essere soltanto lui. Passiamo ad Hillary Clinton, che anche lei è uscita, diciamo, con difficoltà dal confronto in Iowa. An incredible honor to campaign across Iowa with so many of you. Ecco, avete sentito Hillary, dice ho vinto e ne sono orgogliosa, in effetti ha vinto, margine strettissimo, però il suo problema resta. Perché? Perché insomma è emersa una debolezza strutturale di questo candidato che doveva essere in testa e sbaragliare assolutamente tutti. Dopodiché è stata stoppata da questo signore, da un senatore del Vermont che è virtualmente sconosciuto. E c'è un fatto strano che va spiegato, perché Hillary è sicuramente la più preparata. L'altra sera al rally di Des Moines l'ho vista in forma splendida, ha la macchina organizzativa migliore, un tessuto di alleanze politiche imbattibile. Eppure ha avuto solo questo pareggio con Bernie Sanders. Perché? Beh, perché secondo me si porta dietro questa sensazione strutturalmente sgradevole per gli americani, cioè di farli guardare all'indietro invece che in avanti. Hillary è certamente più il passato che il futuro, e ritrovarsi 20 anni dopo alla Casa Bianca con Bill e Hillary, nonni dei figli di Chelsea, beh, è una zavorra che pesa nell'inconscio collettivo di un'America scontenta che vuole voltare pagina e che non può e non vuole cercare nel passato le sue soluzioni. Soluzione che non è neppure Sanders, è anziano ma il nuovo, era virtualmente sconosciuto. Eppure questo signore, beh, non era mai emerso come uno dei protagonisti politici nella capitale. Era un senatore, ma era totalmente sconosciuto. Adesso improvvisamente diventa il salvatore del paese. Beh, ecco, diciamo che tra il dire l'attacco a Wall Street, il facile attacco ai poteri forti, una retorica a vantaggio dei giovani, il regalare a questi giovani una speranza, beh, sicuramente funziona dal punto di vista della campagna elettorale, ma che questo poi diventi un veicolo per la Casa Bianca, beh, a me sembra un po' più difficile. Dunque, alla fine Hillary ce la farà con questa nomination. Però una cosa è confrontarsi con Trump e Cruz, dove avrebbe vinto facilmente, un'altra è scontrarsi con il volto giovane, brillante, simpatico, il volto del futuro dell'America anche per appartenenza etnica di Marco Rubio, che a sua volta ha un problema, perché insomma è un senatore privo di esperienza esecutiva, giovane. Chi vi ricorda? Beh, Barack Obama. E Barack Obama non è che abbia fatto poi molto bene, soprattutto sul fronte della politica estera, per gli Stati Uniti. Ed è in questo percorso che si inserisce appunto Michael Bloomberg. Secondo me deciderà dopo il New Hampshire se entrare o meno in questa corsa elettorale. Chi lo conosce bene, mi racconta che ha molta voglia di tornare in politica attiva, non fosse altro per vivere una nuova ultima avventura sotto i riflettori nazionali. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, abbiamo avuto molte sorprese, continueremo ad averle, dunque Bruce Springsteen, Surprise, Surprise. The surprise, surprise, surprise, yeah, surprise. Shine down, we'll surprise. da Manchester è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.